male, però modulavo anche, tu lo sai, il lavoro civile che facevo io, ce l'avevamo la notte, no, per questioni di lavoro e cose varie, però è stato già iniziato, è stato iniziato da questa zona, è stato iniziato da questa zona. E così che a Caicri ci siamo innamorati e ci siamo sempre. Ma c'è stato un break avanti? Avanti il break, ecco, buongiorno. Ma c'è una voglia anche tu? Non ne ha voglia, no. Io forse c'ho i baracchini da prima a nascere tu, io non so quanti anni hai, però più di 20 anni che ce li avrai, più di 30 ce l'avrai. Sono 25 anni. Immaginati, a 25 anni è cominciato a uscire con la concessione a Cai. Ma lui mi voleva fare, ma che allora non ce n'erano tutti questi guai che ci sono avuti, ha capito, però era tutto più frequente, perché quando ero migliore, perché quando ero uscito dalla concessione erano più sotto controllo, tutto, c'era le poste che aveva il loro camioncino, andavano, controllavano, e con le macchine che aveva che ci portavano sino sotto casa, Lo so, adesso non è così facile, no, per fare un controllo, cioè da trovare, ma ci vanno un po' più sul leggero, ci vanno. Però prima era una rottura di scatole, era una guerra, era. No, guerra non era, anzi c'era un'associazione, c'era più controllo, io facevo parte dell'associazione con il direttivo e tutto. Quando uno si comportava bene, capito, anche che non era scritto l'associazione, si intracciava l'indirizzo, sapeva chi era e si mandava la lettera senza mandarli né polizia, né carabinieri, né finanza, né nulla. Naturalmente, se dopo il controllo c'era di più, se dopo non si portava, non ascoltavano la lettera, facevano la cassazione, si prendeva altri provvedimenti. Ma graffa, adesso credo che questi controllo prima arrivano, però non arrivano loro direttamente. Arrivano a un pregio, qua c'è il televisore, c'è che distrutta, ok. Arrivano a casa tua, ti controllano, se sei in regola vanno da quella e invitano a rimediare, se non sei in regola tu invitano a te a rimediare, cioè a metterti a posto, ti dicono di metterti a posto, se la cosa continua, allora interviene niente con la penna, però prima adesso fanno da chi c'è il difetto, ti può controllare una cosa. Ti dicono di metterci in regola, se ti trovo un applicatore di antenna, ti ne ho fatto di staccarti, ne ho fatto, e ti dicono di non metterlo mai più perché non si possono usare. E quindi, cioè, ti invitano a mettere la posta, se tu rompi ancora le scatole, allora vengono niente, loro vengono direttamente col blocchetto, cioè mandano la squadra a Cagliari per controllarti adesso. No, Cagliari si mandava la denuncia, dopo c'era il posto c'era che faceva tutto da salsa, non è che venivano da Cagliari, già c'erano gente competenti, che avevano con macchinari blindati e cose varie. No, adesso ti fanno così, ti fanno, chiamano la squadra prima, cioè quelli che per fare il controllo, è già successo. In due volte è già successo, ma adesso funziona così. Prima vanno da te, controllano se tutto a posto, ti chiedono. Se non è tutto a posto, allora vanno da quella, ti invitano, cioè per evitare che prima di intervenire loro, ti invitano a staccare, cioè a mettere tutto a posto. Se tu non lo fai, allora lì intervengono loro e non vedi chi c'è la penna di Strisciani. ma prima era tutta un'altra. I primi anni della concessione, porca la miseria, immaginate se ci volevi avere la concessione della 27, no. È come se partessi carabiniere in polizia, certificato penale, buona condotta, di residenza, un po' di film del vicinato, che persona eri, non eri, capito? Non era così facilmente avere la concessione prima. Lo so, prima c'è un sacco di cartacce, già me l'ha detto Papa, me l'ha fatto vedere com'era. Mi ricordo di te quando eri giovinotto, là, diciamo, che entravi, io facevo l'indiano perché naturalmente, perché no, è sempre essere un po' riservato, è sempre bello. Attenzione, qui muratore, sa dove stai modulando muratore? Da sono atto, ti ricordo. Io facevo il fitto tolto facevo. Una cosa che mi è sempre piaciuta la radio, la verità. E tu sei da ragazzo, da giovanotto, sei dietro questi giocattoli, perché io li chiamo giocattoli adesso. E chiama. Comunque mi divertivo un bel volte, sentivo tutti gli vestigi, mamma mia. La puoi vedere a Paoletto, ma per carità, cioè mi è giocato, credevo un bel. Con Falcone? Allora, quando lo sentivo ha tirato, non solo lui, anche altri, faceva un sacco di risate mi faceva. Il Falcone era una cannonata, era quello che era, però era una cannonata, persone, famiglia, io ho conosciuto anche il padre che era ingegnere, era, dopo si avevano fatto un piccolo stabilimento di lavorazione in marmo e cose varie, e l'ho conosciuto abbastanza. Caffè, poveraccio, esci tu così, cosa? No, me lo ricordo come se fosse oggi, e poco si arrabbiava. Ma non so che fine ha fatto, se si trova ancora, se non si trova, tu non lo so, io sono parecchio tempo senza aria, lo sai, la mia situazione, come allora, parecchi anni senza uscire da casa. No, è a Sorsola la sorella. Dove? A Sorsola, se l'ha portato la sorella a casa. Sì, deve essere che perché si troverà soltanto il fratello, se si trova. Ma i genitori saranno morti, se non che se l'ha preso il fratello e se lo tiene in casa il fratello. No, se l'ha preso la sorella. Che c'ha quella che abita sotto, lui abita sotto, c'ha già sotto questo. Ah, forse, non lo sapevo, la prima cosa che sento. Meglio che sia ancora vigente, che sia tranquillo, ok. A entrare non è entrato più, Per non ha più niente, ne ha cavato tutto quel che era una guerra, cioè non se ne poteva più. Quindi no, manco vogliono a reclutarglielo. Però non se ne è mai dimenticato, perché io conosco la zia, conosco, che è cliente nostra, dai. No, però degli amici non se ne è mai dimenticato. Io tantissime volte, quando facevo il servizio di vigilanza, no, che andavo lì a controllo stabilimenti di Aroni, che avevano un garage di macchinari e cose varie, e lui tante volte in questo periodo d'estate alle 2 alle 3 del mattino si è seduto sul fuggiolo, una cosa e l'altra, mi faceva aspettare, mi apportava sempre da bere. È tutto, okay. Io sono costretto di lasciarti, è venuto mio figlio con mio nipote, che ero 2 settimane senza vederli, caso della chiacchieratina, tu, già ci sentiamo magari. Direttiva, il vendita per la 27 era mantovato come sta venendo maestrale. Non so se ti può interessare, magari io chiamo a Gigi Vulcano che non stava dicendo noi.